assistenti curatrici. A tutte e due siete assistenti curatori, sì, cioè curatrici, esatto. Perché assistenti? Perché assistiamo. Assistiamo il direttore artistico. Il direttore artistico, che salutiamo perché sarà lì che ci sta ascoltando sicuramente, anche perché è imbottigliato nel traffico, come eravamo noi fino a poco tempo fa. No, non è vero, stasera c'è un evento al Mambo, sì, ho visto infatti. Un evento, per la donazione di un'illustrazione, di un disegno dedicato a Patrick Zaki. Ah, ok. No, perché infatti ho visto che questa settimana ci sono eventi praticamente tutte le sere, siete super busy. Sì. Sì, ma... Sono la conferenza Mambo impegnata per tutta l'estate, direi. Tutta l'estate? Sì, okay. Ci sono una serie di presentazioni, incontri, quindi... Stay tuned, assolutamente. No, infatti, dopo le menzioneremo anche due o tre robe che ci sono questa settimana. Il Mambo non si ferma. Il Mambo non si ferma mai, infatti. Neanche quando il mondo si era fermato, il Mambo non si è assolutamente mai fermato. No, infatti mi ricordo bene, sono riuscito a intervistare almeno 8 su 12 fornopanisti. Ce lo ricordiamo bene anche noi, sì. Un'esperienza abbastanza particolare, sì, perché erano momenti in cui si viaggiava ancora con la certificazione, no? Perché certo, si muoveva infatti per lavoro, e quindi io che faccio la pendolare, cavoli, è vero, tu mi hanno fermato un paio di volte. Ok, tutto ok, dove sta andando? Sì, al lavoro. E dove lavora? Al museo, perché i musei sono aperti? No. E quindi dove sta andando? Al museo. Spiegare, sì, no? Ma è capire, del pane, però sì, sì, sì. Una volta hanno fermato anche Willy, il nostro speaker mattiniero che veniva in radio, anche lui appunto, cioè noi Radio Città Fujiko eravamo aperti, esatto. Cioè siamo stati per un po' noi poveri trasmissionieri abbiamo dovuto fare tutto registrato, infatti io scendevo da casa, andavo a intervistare il nuovo forno panisti, poi tornavo a casa e montavo tutto. Era comodo. Era abbastanza comodo, sì, anche perché non mi potevano fermare, perché comunque i 100 metri erano rispettati. Esatto. No, devo dire che è stato un periodo, anzi sono contento che sia finito adesso. Sì, anche noi. E cosa succede al Mambo? Cosa state mi arriva un confermo, però non so che cosa. Vabbè, naturalmente al 333 180 94 94 potete fare domande o mandare WhatsApp o... Ecco, Willy conferma che è stato fermato. No, lo so benissimo perché sono amico del vigile urbano che l'ha fermato. Per cui. Era Willy che confermava. Esatto, era Willy che confermava. Grazie, sì, Willy, che ascolti Cox Spaziale, mi fa molto piacere. Anch'io ogni tanto di mattina riesco ad ascoltarti. Perché poi siamo in un casino a fare le trasmissioni qui a Radio Città Fujiko e alcuni di noi non ci conosciamo nemmeno tra di noi. Cosa mi raccontate di bello? Allora innanzitutto Sabrina, raccontaci tutta la storia, da quanto tempo sei al Mambo e perché, da quando per è nato, ma c'ero già prima, nel esatto. senso che io ho iniziato a lavorare quando ancora era Galleria d'Arte Moderna di Bologna, sono arrivata nel 2003 con uno stage grande dell'università e poi insomma ho avuto la fortuna, posso dirlo, di rimanere e continuare appunto a lavorare in questo museo, che insomma è cambiato tanto negli ultimi 20 anni, perché ormai sono 20 anni, il prossimo anno sono 20 anni che lavoro per questa istituzione, quindi insomma ne ho viste tante di cose, certo. Ho visto passare anche diversi direttori, chiaro, quindi tutte le volte si ricomincia un po' da capo, però insomma una parte importante della mia vita. Stavo per chiederti qual era il tuo direttore preferito, ma non si dirà mai. Mai. Puoi dire Weihermeier, dai. Weihermeier, poverino, non c'è più, ci ha lasciato. Cioè, nessuno può dire niente, infatti. Beh, è stato il primo. Io sono entrata con Weihermeier, quindi sicuramente un ricordo. È lui che mi ha dato la prima possibilità di lavorare in questo ambiente. Mi ricordo. Qual è stata la prima mostra? Per la mostra di Piero Manai. Ah, grande, bella. Quindi. Gran mostra. Finì lo stage, poi insomma, come in tutti i musei, si fa tutta la programmazione annuale e c'era in programma questa mostra di Piero Manai e mi richiamò. E dal di lì ho iniziato e ho imparato tutto proprio dal di lì. quindi un artista al quale... Che comunque insomma, erano gli studi che avevi fatto, giusto? Sì, sì, certo, quindi insomma sì, no. Non è che sono ti ha chiamato per sbaglio, insomma. No, per sbaglio no. Ok. E tu Caterina, chi ti ha chiamato e quando? Ah, io sono più novellina perché sono da 2 anni, però di cui uno ho fatto praticamente a casa col Covid, cioè nel senso sotto Covid, quindi sono, ho iniziato e 2 settimane dopo ci hanno messo in quarantena. E sono venuta invece tramite Lorenzo Balbi, che è l'attuale direttore, per cui non ho confronti, diciamo, dentro il Mambo, però venivo da un'altra esperienza museale al Castello di Rivoli. Mi ricordo. E quindi sono 2 realtà molto diverse, nel senso il Castello di Rivoli è una storia, insomma, è proprio un'istituzione molto rigorosa e classica, invece ho trovato nel Mambo invece uno spirito più innovativo, comunque di apertura al pubblico, per cui il Castello di Rivoli è in cima a un monte, sì, no, diciamo che il pubblico e lavora anche un po', no, su questa, cioè su questa distanza. Invece il Mambo è al centro della città, aperto sotto i portici, per cui c'è tutto un altro tipo di relazione proprio col pubblico e anche con una devozione verso la ricerca sull'arte italiana, che è sempre stata una cosa a cui ero molto legata e quindi che trovo molto stimolante, ecco, anche nell'approccio di Lorenzo Balbi. Quindi contenta di essere approdata al Mambo e di rimanerci ancora un po', spero. Speriamo, sì, naturalmente. Speriamo. Bene. intanto Lorenzo è stato rinnovato. Ecco, abbiamo spaccato un microfono. La okay, tua si è chiusa, sì, infatti. Allora a questo punto allora metto una canzone così riapro la porta e possiamo ricominciare a respirare. Non mi dà neanche il tempo di fare il post su Instagram. Ecco. Oggi, meno male, oggi siamo... non ci ha neanche fatto vedere la foto. Adesso sono molto critica. L'ho già postata senza. Mi dispiace, ma funziona così. Coxo Spaziale non guarda in faccia non a nessuno. Non guarda in faccia a nessuno. Infatti. Del resto siamo in radio. Anzi, fra l'altro, prima di tutto. Ma infatti, il bello della radio è che non ti vede nessuno. Puoi anche essere scomposta, spettinata, poi arrivi te. Infatti, esatto. Scatti la foto, posti a tradimento. E inoltre il bello della radio è anche che c'è gente tipo Marco Roma che manda i vocali su WhatsApp in cui canta, sentite. Forse. Buongiorno, senti questa voce dalle montagne che arriva da lontano, ti sto chiamando tesoro mio, dai vieni da me, non tacere col tuo silenzio, ma dai non tacere, dai, io sono Marco Roma, buongiorno. E buongiorno a te. Grande Marco Roma. Marco Roma. Lui tutti i giorni manda un messaggio vocale di questo tipo a Radio Città Fujiko, come è giusto che sia. Ah, vedi, mi dice che non funziona un file. Ok, di che cosa stavamo parlando? Di voi due, perché sì, poi abbiamo parlato di noi due. Esatto. Adesso al mambo? Cosa fate stiamo al per fare al cosa mambo? State per fare al mambo? Non ci si poi, ferma e poi mai. No, e poi a me piaceva sentire anche come è andata a City, perché insomma so che stavolta è stata abbastanza intensa. È la stata faccenda. Molto intensa. Ogni anno che passa penso non può andare peggio invece dal punto di vista proprio dell'intensità. Quest'anno devo dire che è stata veramente tosta per tutti. È stata tosta, ma Art City in generale è tosta perché ovviamente ti misuri con degli spazi che non sono in primis i tuoi, sono gli spazi infatti. Museali, quindi devi lavorare proprio fuori dalla tua comfort zone, che può essere quello del museo. Nel mio caso, ecco, come dire, quest'anno sono stata molto più coinvolta per quanto riguarda il progetto speciale che ha visto appunto come protagonista Tino Segal, e lo spazio deputato era Piazza Maggiore, quindi insomma stiamo parlando di niente, una piazza che cioè, uno degli per artisti quanto più... tu possa cercare di prevedere l'imprevisto è impossibile. La piazza è veramente. Piazza, io non sono mai stata così tante ore in una piazza come per come questa per edizione di Art City, ma ho scoperto proprio il potere della piazza, come una piazza può metterti in difficoltà ogni 5 minuti, come tutto quello che avevi cercato di prevedere è imprevedibile, non può essere veramente. La piazza non si contiene. La piazza è un luogo dove transitano tutti, dove qualsiasi situazione si genera anche all'improvviso, no? Ah certo, no, e poi stavolta quindi... era, cioè Tino Segal ha fatto un lavorone. Ha fatto un gran lavoro, sì, ha fatto un gran lavoro. Io sono passato alle volte in cui stavano facendo... lo spettacolo con devo dire sì, anche una precisione notevolissima, sì, cioè, assolutamente c'erano degli attimi che anche ti lasciavano per loro è stato sì, la prima volta c'erano degli attimi in cui ti lasciavano veramente sorpreso, perché sembrava tutto un po' raffazzonato e poi in un momento geometrie perfette, veramente coreografie tostissime. No, è stato sicuramente faticoso, certo. Perché questo non lo posso negare, ma faticoso proprio dal punto di vista logistico, organizzativo, ma anche perché una performance che ha visto il coinvolgimento di più di 40 performer, quindi insomma quando hai a che fare anche con la componente umana così certo. Un gruppo così, ognuno ha poi anche il modo in cui erano stati proprio, scelti, no? Perché, sì certo, perché quindi, non insomma, erano professionisti insomma, no, cioè, no alcuni... sono persone, alcuni professionisti, altri meno, quindi che vengono un po' da ambiti diversi, tutti comunque scelti e formati da Tino Segal, che avevano già collaborato con lui, alcuni che insomma arrivati da altre parti d'Europa, sì, una buona parte, uno zoccolo da Torino, quindi un'amica che ospitavo a casa, grande. Provata dal caldo. Sì, ecco, poi era ovviamente sono provata. State tre giornate caldissime. Sì. C'era anche una mia amica in mezzo, che invece lei viene da Varese, se non sbaglio, Diana. Che salutiamo Diana. Salutiamo anche Valentina. Certo. Salutiamo Bobo, salutiamo tutti. Perché poi alla fine impari a conoscerli un po' nei tempi morti, nei tempi delle pause. Ma loro quanto tempo sono stati qua? Allora, loro sono arrivati il mercoledì. quindi hanno fatto il mercoledì mattina. Cioè loro sono arrivati il mercoledì del, in cui il venerdì si faceva. Sì, si sono partiva. Arrivati il mercoledì e loro hanno fatto tutto mercoledì e tutto giovedì delle prove. Quindi prima di mercoledì loro non si conoscevano? No, si conosceva bene il gruppo di Torino, quello che aveva fatto insomma già la performance continua a Torino. Cavoli, avrei detto che avessero provato per un mesetto, non per quattro giorni. Insomma. No, per un giorno e mezzo e poi dopo. Wow, impressionante. E poi quelli di Torino non lo facevano da almeno 2 o 3 anni. Sì, perché da 3 anni. La mostra all'OGR è di almeno di 3 anni fa. Quindi. Mm-hmm. E poi comunque. Anche qui, e si torna al discorso dello spazio, cioè le OGR sono un ambiente chiuso, protetto, tra virgolette. Certo. La piazza è uno spazio, un ambiente dove può succedere di tutto, ed è successo di tutto in quei giorni lì. Per me, io a un certo punto pensavo di essere veramente in una candid camera, però ho detto no, questo non può succedere, invece in piazza succede di tutto, tra cui gente che si è messa a performare con loro. Beh, quello sì. Assolutamente sì. Gente che ha pianto, gente che ha riso. Io pianto, sì, è la prima volta che li ho visti. Mi ha smosso qualcosa dentro. Che insomma, no, infatti è tosta. Anche a me è venuta Diana a cantarmi una canzone. E poi ovviamente stando in piazza così tanto tempo mi sono capitate diverse storie, perché ovviamente c'era tutta una parte legata alle storie personali. Quindi ecco, io che ovviamente rispetto a un visitatore l'ho vissuto in maniera diversa, perché ovviamente io queste persone non le conoscevo se non perché avevo chiesto i documenti, avevo organizzato il loro viaggio, il loro alloggio, sapevo che dovevano arrivare a Bologna, un po' insomma coordinato un po' il loro calendario, no, per quei giorni lì. Però poi ovviamente ero lì come figura che si stava occupando della logistica e dell'organizzazione. Però poi quando sei lì e la vivi un po' anche come visitatore, quindi ti si avvicinano queste persone, ti raccontano una storia personale, alcune anche molto forti. Io personalmente ho sentito la necessità, finito il, come dire, la giornata lavorativa, di conoscerli un attimino più, perché, come dire, era un gesto di generosità, no? Il raccontarti, no? Una parte importante, anche dolorosa, della loro vita. Quindi, per riportare un po' il confronto e il dialogo equo, no? Quindi anch'io ti racconto qualcosa di me. Infatti. Lì. Comunque, una bella esperienza. Ogni anno è sempre chissà l'anno prossimo. Sì, che poi l'anno prossimo non è l'anno prossimo. Infatti è fra sei mesi. Esatto. Capito? Uno dice vabbè. Perché comunque un anno di tempo. Possiamo dire che Arte Fiera ci sarà di nuovo a gennaio, no? Cioè direi che è abbastanza assodato. Questo non lo possiamo dire noi. Certo, però diciamo, cioè in realtà l'ha detto Simone quando è venuto. Sono buone possibilità. Sì. Anche perché l'alternativa è che meglio non pensarci. No, non ci pensiamo. Infatti, però devo dire che è stato simpatico avere Art City durante la primavera. Sì. Sì, che poi già anche l'avevamo testato l'anno scorso. Infatti, l'avevamo testato l'anno scorso. Senza Arte Fiera, che è un po' strano, però. Sì, senza Arte Fiera, però sì, insomma, l'anno scorso forse è stata una cosa un po' diversa, però. Sì. Ci siamo beccati sicuramente le 3 giornate più calde di tutto maggio. Quello certo. Sì. Praticamente eravamo in giro in piazza in mutande. Esatto. E tu, Caterina, hai fatto un sacco di roba durante Art City. Innanzitutto la mostra è finita ieri, quella di. Sì, di Giulia Niccolai. Si è conclusa ieri con questa lettura di Giampaolo Roffi, che è un artista e poeta. Che è parte del movimento della poesia totale, che è stato tra i prestatori della mostra, ha contribuito con queste audiocassette bellissime, che sono una rivista che si chiama Baobab, su cui Giulia Niccolai aveva pubblicato diversi audio che erano raccolti in mostra, che sono tutte le sperimentazioni di poesia fonetica. E quindi ha chiuso questa mostra, che è stato il risultato di un anno di lavoro mio e di Alison Grimaldi Donayou, che ha co-curato con me il progetto, e abbiamo cercato di raccontare la storia di Giulia Niccolai, che è stata una fotografa, poetessa, traduttrice, però anche artista attiva nella poesia visiva e nella poesia fonetica. Quindi diciamo che ha avuto una vita veramente incredibile, perché poi a un certo punto è anche diventata monaca buddista, per cui gli ultimi 30 anni della sua vita li ha dedicati a questo percorso spirituale. Quindi abbiamo cercato di raccontare soprattutto il periodo che più l'avvicina ai linguaggi dell'arte contemporanea, e quindi in mostra c'erano soprattutto documenti, libri, fotografie, e poi questi audio che interrompevano un po' il ritmo dell'archivio, che ovviamente, insomma, una mostra d'archivio non è sempre delle più simpatiche, però c'era questa voce irriverente che era la voce di Giulia Niccolai, che ogni tanto appunto diceva la sua. Per esempio c'è l'audio che poi ha dato il titolo alla mostra, che è Perché lo faccio perché, che era questa ripetizione quasi infinita di questa frase, che si concludeva con un ecco perché lo faccio, per cui questo continuare a sperimentare quel linguaggio, che è stata un po' tutta la sua storia, che era un po' il suo motivo, no, di vita. Quindi lei negli anni 70 decide di dedicarsi totalmente alla poesia insieme ad Adriano Spatola, che era il compagno di allora, fondano questa rivista ormai leggendaria che si chiamava Tam Tam, che diventa il luogo in cui si incontrano poetesse e poeti italiani e internazionali. Quindi insomma una storia sì di una poetessa italiana, però anche dell'Emilia Romagna, perché questa attività viene fatta al Molino di Bazzano, vicino a Parma, e diventa una sorta di eccellenza anche dell'editoria indipendente, quindi insomma sempre in collegamento con l'estero, perché Giulia Niccolai era di madre statunitense, perché parlava benissimo inglese, quindi è stata un po' di congiunzione tra l'Italia, gli Stati Uniti e l'Australia, dove lei stessa ha portato proprio la storia della poesia visiva italiana ospite in due occasioni alla fine degli anni 70. Quindi un progetto di cui tra l'altro io non conoscevo assolutamente nulla di lei, non l'avevo neanche mai sentita dire proprio, infatti. Esatto, no, infatti è una storia proprio nuova, e devo dire è stato anche complesso ricostruirne la storia, perché è praticamente assente in tutti gli archivi, diciamo, istituzionali, per cui abbiamo cercato di lavorare un po' da detective e cercare invece gli amici, spesso uomini, suol dire, però è così, che avevano nei lasciti che avevano lasciato a diversi archivi delle tracce della storia di Giulia Niccolai. Quindi quello perché poi siamo riusciti a entrare in contatto con quindi c'è stato da una parte il lavoro di archivio, ma dall'altra anche un lavoro personale, di relazione, di dialogo con le amiche di Giulia Niccolai. Sì, che perché lei è scomparsa poi da poco, no? Sì, è scomparsa quasi tra poco, un anno che è scomparsa, e è scomparsa ma dunque voi siete riusciti a incontrarla prima di quando noi le avevamo scritto, perché in realtà volevamo invitarla per volevamo fare un festival di poesia sperimentale, così senza soldi volevamo fare questa cosa, e l'avevamo scritto perché volevamo che fosse un po' la ospite speciale. Certo. Le avevamo mandato una mail, però veramente poco dopo è mancata, e quindi da lì sono andata da Lorenzo Balbi, gli ho chiesto se potevamo trasformare questo inizio di passione che avevamo avuto io, certo, e Alison per la sua storia in una mostra, consapevoli del fatto che veramente era dura trovare materiale abbastanza per poter fare una mostra, no? Però devo dire che appunto è stato anche proprio un viaggio in giro per l'Italia, siamo state a Roma, come a Sasso Marconi, in Liguria, dove abbiamo conosciuto Maurizio Spatola, che nel frattempo ci ha lasciato anche lui, però che è il principale prestatore della mostra, che è un uomo fantastico, che in questo sito che è ancora online, se cercate Maurizio Spatola, archivio Maurizio Spatola, lo trovate, ha messo a disposizione tantissimo materiale e in modo generoso dava gratuitamente la possibilità di consultare anche poi dal vivo questi materiali, e quindi insomma poi siamo entrati in contatto anche con l'erede di Giulia Niccolai, probabilmente l'archivio Giovanni Nicolai è da farsi, perché certo. Sono degli scatoloni a casa della nipote. E lì parte un delirio non da poco. Perché esatto, poi, sì. Però so sì. che è in uscita un libro a cura di Marco Belpoliti, che è un libro di 300 pagine che racconterà un po' tutta la sua storia con tutti i suoi testi. Bene. Ed è in uscita anche un libro su Giulia Nicolai, fotografa, a cura di Silvia Mazzucchelli. Perché negli anni 50 lei è stata fotografa e ha fotografato degli avvenimenti molto importanti, ha girato tutto il mondo ed è stata l'ultima opera che lei ha seguito in prima persona, per cui lei aveva deciso tutte le foto, quindi sarà un libro che poi spero che si possa anche magari presentare al Mambo. Certo. Così è. E anche la mostra ha un catalogo, giusto? Stiamo lavorando per cercare dei finanziamenti e spero che si riesca a fare, magari appunto creando proprio una connessione anche con questo archivio in potenza che c'è, che è lì. No, perché è materiale importante secondo me. Anche sì, ma poi anche far vedere che si possono produrre dei libri, appunto adesso questo di Belpoliti sicuramente ricostruirà la sua storia soprattutto come scrittrice, poetessa, lineare, no? Però far vedere come una mostra può dare un punto di vista diverso, perché sicuramente quello che abbiamo cercato di fare era di mettere anche in questione l'archivio, quindi cercare che questa mostra non fosse appunto una mostra solo di teche, ma che in qualche modo risuonasse anche attraverso i due documenti video, che sono due documenti inediti, cercare di dare corpo a Giulia Nicolai. E sicuramente gli audio ci hanno aiutato tantissimo, perché lei aveva questa voce tuonante. Quindi insomma si sentiva. Anche quello è uno spazio difficilissimo, esatto, sì. Dove intervenire il padiglione dell'Expo di Novo. Non si può appendere niente. Può appendere niente. Poi c'è una storia potente. Sì, certo. Nel senso che è fortemente connotato. Infatti. Entri veramente in quello spazio, sempre un po' in punta di piedi. Esatto. Perché ha però sua fascia. Sì, si presta molto per queste operazioni d'archivio, sicuramente, no? Perché diventa anche un po' un luogo d'archivio esso stesso, certo. No? E quindi si entra, però appunto anche con gli audio per esempio è un luogo che non ha porte praticamente, no? Per sì. cui era tutto da misurare millimetro, c'era un po' di, però sì, questo è stato un progetto insomma, a cui ho tenuto molto, sono contenta che insomma che abbia visto la luce. E ti devo interrompere perché c'è qualcuno che deve dire qualcosa. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Aiutaci a sostenere Mayo Art and a stupendo meraviglioso world of intercambio con il cemento y communication and JF to PJNF and Grand 9 U times and PBJH ho ho gone fest for GMO JRJ J Roy Agent to 8 in 95 I Chitage Q 59 Y JH and Rookie EU 589 U 85 H Wajitu Hutch JJJJ 9 H to Jitrips YG 9 which Gina J below the Nes Carmelizadas ha no two pities loss envelopes review Kunea no raffle toe D things dot oh H how beautiful low. When you break everything, thank you very much. Everything is beautifully modern repressivo semiente Q me liga all mailbox. I just can say you P-E-E-E-E-E-R. Very happy. No, non chiedetemi che cos'era quello, perché non lo so neanche io. Oddio. Nel frattempo anche fuori stanno succedendo un po' di cose strane, ma va benissimo. Tanto qua è Coxo Spaziale, che dire, siamo qui ritornati con Caterina Molteni e Sabrina Savorin, assistenti curatrici del Mambo Museo. Adesso lo dice, sono stato bravo. No, vabbè, perché l'altra volta ho chiamato vice direttrice la Gwendalina Piselli, a momenti mi accoltellano in diretta, capito? Bisogna sempre tenerle un po' battute, esatto. No, ma infatti anche sta cosa devo dire che mi interessa, cioè questa, no, che il direttore è sempre un maschio, no? adesso sempre no però a Bologna, sempre sì, diciamo, c'è una maggioranza dai di direttori a Bologna, diciamo che sempre sì, perché non c'è mai stata una direttrice donna. Beh, abbiamo avuto così è vero c'è stata una non direttrice donna, sì, è vero. Diciamo così. Che dai, vabbè, non si possono dire queste cose, è stata una direttrice invece, ok. Mm-hmm. Di passaggio. Però sì, abbiamo provato anche ad avere una direttrice donna, è un'altra cosa. E avete fallito. No, non abbiamo fallito. No, scherzo, faccio il cretino, però dico sì, così. Però no, è strano che comunque siete tutte assistenti curatrici, giusto? C'è qualche assistente curatore maschio? Al momento no. Però anche Balbi è stato per tanto tempo assistente curatore maschio. Sì, no, quindi... certo, però non a Bologna. Io parlo sempre di Bologna. Ai tempi di Maragnello non c'era un assistente curatore, avevamo un senior curator che era Andrea Vigliani. Ah, certo, è vero. Però c'era questo ruolo, insomma, assistente, ma certo, un uomo assistente. Adesso non è che voglia girare il coltello nella piaga, però secondo me sono dinamiche interessanti. Poi no, diciamo che al Mambo non c'è. Da quando c'è Lorenzo non c'è la figura del curatore, cioè il direttore artistico che è anche curatore, ha quella responsabilità alla fine. Poi comunque Lorenzo ci dà anche molta libertà si è creato un rapporto anche di fiducia a livello progettuale, per cui se vogliamo far qualcosa si può proporre, bisogna beccarlo nel momento giusto. A volte è lui invece che chiede proprio di proporre cose per non accentrare. Lui ha ammesso di essere impulsivo, per cui quando lo trovate allegro gli proponete la cosa più difficile e vi direbbe sì. È molto aperto a tutto lui, mi sembra, no? Sì, è disponibile. E dunque io volevo che Caterina che ci raccontassi di Benny Bosetto, ecco, che a me è piaciuta tantissimo. L'altro carico da 90. Perché quella è anche un altro carico da 90. Esatto. Uno dice, vabbè, hai Tino Segal, l'evento speciale quest'anno è... Ok, no. In realtà, già aveva dovuto avere a che fare con Zuffi, che insomma non è proprio... Esatto. Ecco, venivamo da Zuffi, però c'eravamo riposati. Io avevo il libro nel frattempo, che poi è andato in stampa. Complimenti, che me lo sono fatto regalare da Lorenzo l'ultima volta che era qui a Cox Spaziale. E ho scoperto che Italo mi ringrazia pure, non so bene perché. È vero. Mi ha sorpreso sta cosa. No, sono stati mesi in effetti intensi, perché se ci penso, avete fatto un sacco di Roma. Da dicembre ad oggi, ovviamente non è che adesso siamo in vacanza stiamo archiviando tra una mostra e l'altra cosa faranno al Mambo? Un evento ogni sera, tipo sta settimana quasi ogni sera, anzi fra un po' ricordatemi che devo fare l'angolo della menzione perché io sono capace di dimenticarmi. No, adesso noi siamo prossimi all'inaugurazione della mostra di Sean Scully, A Wound in a Dance with Love, questo è un titolo tratto da un'opera appunto di Sean Scully, quindi il prossimo 21 giugno inaugurerà questa mostra. Okay. Ed è un ritorno di Sean Scully a Bologna, perché già negli anni 90 Danilo Ecker curò una mostra di Scully a Villa delle Rose, quindi insomma è un ritorno a Bologna in uno spazio imponente. Quindi però torniamo a Benny carico Bosetti. Non hai voglia di parlare di Benny? È che è un'opera che respinge qualsiasi interpretazione unica, no? Quindi Benny Bosetto è un'artista italiana della mia generazione, insomma, quindi insomma sui 30 anni, con cui io personalmente lavoro da 6 anni, perché la sua prima mostra personale fu fatta in questo spazio no profit che gestivo a Milano, che è stato il primo momento di incontro e anche un po' innamoramento professionale, quindi da lì abbiamo continuato a lavorare insieme. E poi c'è stata questa occasione fantastica che è stata appunto creata dal mambo per presentare questo sogno che aveva Benny di fare una grande opera performativa che era quasi uno spettacolo teatrale, diciamo, no? Quindi a cavallo tra lo spazio della performance e la struttura di uno spettacolo teatrale. L'opera è stata resa possibile grazie al Trust per l'Arte Contemporanea, che ha finanziato quasi completamente il progetto, per cui appunto è un progetto quasi speciale, sì, per The Art City, sì, perché, sì, perché per fondi investiti è stato abbastanza importante. È una produzione importante. Sì, no, anche perché c'erano un sacco di attori. Sì, sì, cioè, sì, sono 14 performer, oltre che ovviamente un costumista, una sarta, una aiuta coreografa, una scrittrice, poetessa che ha scritto i testi, certo. Ateliersi, che con cui abbiamo creato questa collaborazione, soprattutto Fiorenza Manni, che ha coordinato e trovato tutti i performer. Quindi insomma una produzione che ha visto veramente tantissimi attori e attrici coinvolti. E l'opera è praticamente un pastiche artistico, quindi i pastiche sono queste creazioni che sono frutto di una reinterpretazione di opere del passato, e in questo caso all'interno dell'opera di Benny abbiamo rimandi prima di tutto alla Nave dei Folli, perché l'opera si chiama Stultifera, quindi Stultifera Navis era la traduzione latina della Nave dei Folli di Sebastian Brandt, e quindi si parte già da una citazione che però non vuole... che non viene ripresa, diciamo, come era la Nave dei Folli originale, perché era comunque basata su una critica sociale alla follia, vista come un po' un momento di degenerazione dell'essere umano, cioè il punto, il culmine più basso dell'essere per l'umanità. Invece Benny l'ha presa, l'ha reinterpretata, e l'ha presa invece come una sorta di condizione umana da celebrare, no? E da mettere in scena, cercando di vedere i lati positivi e soprattutto i lati creativi che ci sono all'interno della follia, nella sua istintività, nella sua mancanza di giudizi che possono guidare, no, l'agire. All'interno dell'opera ci sono poi rimandi al cinema, come Bélatar, ma anche Pasolini, ci sono rimandi alla storia dell'arte, a alcune opere proprio della Pinacoteca Nazionale di Bologna che ha ospitato il progetto, ci sono rimandi alla danza di corte, a quei programmi televisivi americani un po' grotteschi, un po' alla Stale Olio, c'è molto, e ci sono anche citazioni del lavoro stesso di Benny, per cui durante le scene si vedono apparire anche proprio degli oggetti scultorei che, se si conosce il lavoro di Benny Bosetto, si sono già visti in altre forme, in altre fattezze. Diciamo che tutto il lavoro si svolge sopra questa nave che poi è stata riprodotta con queste vele che sembrano quasi ormai diventate delle pelli di pesce, come se questa nave in questa lunga navigazione fosse diventata parte dell'ambiente marino. E c'è questo gruppo di persone che continua a mettere in scena delle piccole scene, dei semi tableau vivant che si alternano tra scene appunto più cruente, ma mai del tutto, perché c'è sempre appunto questa cifra anche molto ironica nel lavoro. E alla fine quello che secondo me arriva dell'opera è una sorta di anche celebrazione di un corpo collettivo, cioè quello che viene fuori in tutto questo processo di risignificazione che avviene costantemente nelle varie scene, alla fine è questo gruppo di persone che conclude poi l'opera in questa processione dove tutti gli attori, tutti i performer si uniscono formando il corpo di un pesce. Quindi c'è questa scena molto bella accompagnata dalle musiche di Vito Gatto, che devo dire che è anche molto toccante secondo me, dove c'è questo corpo collettivo che finalmente si riconosce in una forma che non è umana, poi, no? È una forma di pesce. Tutto questo è stato, cioè, c'è una documentazione di tutto questo, cioè, è finita lì, no? Giusto, cioè, era una performance, è stata fatta in quei 4 giorni, punto, giusto? Non, allora, ci non sono è, delle non fotografie, non c'è un video documentativo. Allora, nei prossimi giorni uscirà il video, ecco. Un video di 3 minuti, che è una sorta di trailer del progetto. Abbiamo fatto un video però non diciamo in modo professionale di tutta l'opera, mm-hmm. più per diciamo chi vorrà magari rifarla nel okay. in futuro, più una documentazione per l'artista, certo. perché si perde sono, no, sono certo, 45 certo. minuti di lavoro, per cui no, avremmo dovuto fare un film praticamente. Io sono riuscito a vederlo proprio I per il rotto della cuffia. Erano limitatissimi, ma cioè come dire, provo a immaginarmi a vedere la stessa azione performativa su uno schermo, quindi a video. Sì, non è la stessa com'è cosa, diverso, perché, certo. Perché per chi ha avuto la possibilità noi di vederlo, eravamo parte dell'azione volendo. E questa è una cosa che un po' mi ha colpito, un po' in tutti i progetti. Questa cosa che hai detto, no? Il corpo in questa edizione di Art City, non so se hai avuto modo di vedere un po' tutti i progetti che facevano parte appunto sul palinsesto dei progetti main. Questo corpo tornava, no? Mm-hmm. Questo corpo, l'insieme dei corpi, l'incrocio dei corpi, i corpi che diventano un corpo unico, cioè sì, alla fine se pensiamo sia Benny che Tino Segal, quello che hanno messo in scena, cioè quello che hanno messo in scena era proprio una anche desiderio, no? Di collettività, sì. di vedere tutti questi corpi insieme, sì, questi corpi, ma non vedere solo, la forza alla fine, anche, no? Della... anche tanti altri progetti, certo. Sì, certo. Quindi questa cosa no, mi ha... devo dire che infatti finito il Covid tra virgolette, sì, ci stava proprio... capito, sì, questa voglia di ritrovarsi. Vi interrompo un attimo perché sì. Dobbiamo appunto raccontare che cosa fa il Mambo tutta questa settimana e dunque ecco, lo racconti tu, lo racconto io, della sì. menzione. Adesso, con una piccola mi sembra sintesi. La progress del lunedì. Infatti. Noi facciamo questo il lunedì. Ah sì, vedi? Io pure. Cioè, anche io e Mia, che saluto oggi, è in Val d'Aosta. Ciao, a fare una mostra. Peccato, infatti. Allora, martedì 7 giugno, che sarebbe, sarebbe domani, a partire dalle 18 in sala conferenze, il Mambo ospita Alessandro Baris, che presenterà il suo nuovo lavoro discografico dal titolo Sintesi. Anche i dischi presentate, cioè proprio non vi fate mancare niente. Arti. Infatti, in uscita in vinile digitale lo stesso 7 giugno per l'etichetta messicana Otono Records. Olè! Poi naturalmente su naturalmente su www.coxospaziale.blogspot.com trovate tutti i link per non mancare niente. Invece mercoledì alle 16.30, sempre al Mambo, gli artisti incontrano Pasolini, i luoghi e le storie. Partecipano Lorenzo Romiti, Miri Stanzini, Elisabetta Benassi. E dunque abbiamo Pasolini e la marginalità dei luoghi, incontri con l'arte contemporanea, che è curata da Lorenzo Balbi, Roberto Pinto e Anna Rossellini. Il progetto è organizzato in collaborazione col Mambo nell'ambito della soffitta per Pasolini nel centenario della nascita. Olè. Poi invece mercoledì, adesso non siamo più al Mambo, andiamo ad Adiacenze, dalle 15 alle 21 Adiacenze presenta Tecnocopia, personale di Alessandro Sambini, a cura di Andrea Tinteri e di Adiacenze, in collaborazione con il corso AMAC, Arts, Museology and Curatorship dell'Università di Bologna. Ingresso libero, mi raccomando, con prenotazione obbligatoria perché sono contingentati. Questo è ad Adiacenze, in Vicolo Santo Spirito 1B a Bologna. Poi invece giovedì 9 giugno abbiamo l'opening alle ore 18 di Closer di Alessandro Trapezio a cura di Vittoria Fragapane. E questo è all'appartamento in via Miramonte 46. Closer è una serie fotografica che prende ispirazione attraverso uno sguardo personale contemporaneo dalla celebre serie fotografica di Dino Pedriali. Questo è a Maison 22. Dino. In via Miramonte 46 a Bologna. Non tanto tempo fa. Questo invece è l'aereo delle 19.52 che ci saluta. E invece venerdì 10 giugno alle 17.30 l'arte e la moda si fondono a Maison La Vignature attraverso il progetto di Marina Gasparini, Atlas X o X, un'installazione immersiva fatta di evocazioni scientifiche, ricordi e un tentativo di salvaguardia del mondo naturale, da cui ogni giorno sempre più ci allontaniamo. Questa è a Maison La Vignature in via dei Sabbioni 9 a Bologna. Oddio, l'avevo perso. E invece venerdì 10 giugno alle ore 18 abbiamo What Remains, doppia personale di Giovanna Caimmi e Patrick Seis Sense, non so come si pronuncia, all'ex chiesa di San Mattia in via Sant'Isaia 14 a Bologna, dalle 18 alle 22. Basta. Insomma, anche sta settimana ne abbiamo, sì, di cose di arte contemporanea da vedere, come, come è giusto che sia. Bologna, devo dire che è un po' migliorata negli ultimi, tu che sei qui da 20 anni e che... Sì, ci sono tante cose. Sì. Magari a volte anche troppe. Sì, alle volte un po' troppe, soprattutto e durante Art City, cioè c'erano 201 mostre. Sì, che si fa un po' fatica a vedere faticoso. Tutto, però... Il fatto è che il pubblico è tanto, quindi per poter dare la possibilità, no? di riuscire a vedere più cose possibili, il programma è sempre più ricco. Adesso noi ci siamo un po', come dire, dati questa misura dei 10 main più lo special project, proprio per contenerci. Perché sennò non si finisce più. Poi con uno come Lorenzo che dice di sì a tutti, per cui l'ho detto io, non l'avete detto voi. No, per cui è un disastro. Sì. Sarebbe un disastro. Però insomma, impegnativo. E adesso in questo momento. Perché poi quest'anno Art City, che uno dice, vabbè, è slittato a maggio, c'era più tempo no, perché metà delle cose le avete già fatte, non è vero, si ricomincia sempre da capo, si riparte sempre da zero, passa un mese ed è stato proprio tutto un periodo molto intenso, perché abbiamo iniziato con il riallestimento della collezione permanente della Mambo, no? che era stato chiuso per diversi mesi per degli interventi strutturali, e la mostra Neon, tutti i progetti, insomma. Come vanno le didascalie alla mostra Neon? Non ci sono più tornato. Non ci sei più tornato, noi stiamo aspettando il foglio di sala da Gino Gianluizzi. Scusate che rido, ma conoscendo Gino Gianluizzi era impossibile, le didascalie erano impossibili lì, però voglio dire, obiettivamente una mostra del genere senza didascalie non ha alcun significato. No, ma infatti, e adesso anzi, facciamo un appello a Gino, dovremmo studiare proprio il modo per raccontare questa mostra, perché è un peccato. Mostra, perché anche il foglio di sala non è uno strumento infatti. Perché se a volte il foglio di sala ti salva, altre volte. In questa mostra il foglio di sala non ti salva. Devo dire che assolutamente. Una mostra così strutturata, cioè così storica, con così tanta storia dietro, di tutti gli anni 90 a Bologna, che comunque sono stati importanti, eccetera, eccetera, devo dire che stiamo ci vuole. Aspettando, infatti probabilmente il vero lavoro sarà il libro, assolutamente, perché in effetti senza una, cioè se così vista così, io adesso l'ho vista in un quarto d'ora, per cui posso anche dire che non l'ho vista come si deve, però sicuramente mi sono sentito il bisogno di capire chi fosse chi, che cosa hanno fatto e che tipo di operazione era quella che avevo davanti, insomma. Invece è stato fatto magistralmente da Uliana per quel che riguarda la settimana della performance, con questo allestimento veramente, lì ci vorrebbero 5 ore solo per guardare tutto, anche lì l'ho visitato in una mezz'oretta. Sono due cose completamente diverse, però la sezione curata da Uliana Zanetti è una sezione che, cioè, si capisce, no, quando la visiti, che c'è proprio, ci sono un paio d'anni di studio e di ricerca, perché ovviamente lì restituisce proprio quella che è stata, che sono stati 2 anni di ricerca che ha fatto questo lei, per dire che anche tra le mostre al Mambo c'è un sacco da vedere, insomma, c'è tantissimo da vedere, infatti c'è tantissimo e ci sarà anche appunto, come dicevo Sean prima, Scully, che inaugurerà Sean il 21. Siamo in pieno allestimento. E per noi è sempre molto magico, perché quando si parla degli spazi, la sala delle ciminiere, Project Room, per noi sono spazi che tutte le volte comunque sono nuove pagine, dove tutte da, tutte da scrivere. Sono spazi bianchi, no? Sono spazi bianchi. Sono sala delle ciminiere abbastanza connotata, però insomma. Sì, è connotata, però tutte le volte si trasforma. Infatti. Si trasforma. No, no, infatti, questo devo dire che è veramente magico in quello che fate. Quindi, sì. Insomma, questa è proprio la magia dello spazio. Certo. No? Infatti, penso che. Infatti, quando prima dicevo il padiglione dell'Esprit Nouveau è uno spazio difficilissimo, noi abbiamo iniziato proprio con un'edizione di Art City. Con la performance My House is Like Corbusier di Chironi, di Christian Chironi, no? Che visse lì per più di un mese. Quindi lui veramente ha provato cosa vuol dire vivere dentro quel modulo abitativo freddissimo. Quindi insomma. Poi dal di lì insomma ci siamo sempre misurati con quello spazio difficile, con interventi diversi, a volte performativi, a volte inesistenti, altre volte installativi, altre volte sonore. Quindi è proprio il bello probabilmente del nostro lavoro, è quello di giocare e sfruttare al massimo quello che è uno spazio fisico, no? Rispetto Infatti. E poi purtroppo non avete abbastanza fondi, perché anche Villa delle Rose è uno spazio meraviglioso che Villa ha un potenziale enorme. Meraviglioso. Purtroppo le sedi sono tante. Chiaro. Anche Casa Morandi, insomma. Casa Morandi. Detto questo, ci dobbiamo salutare. Perché innanzitutto tu devi andare a prendere il treno. Io devo prendere il treno, proprio. Esatto, e il nostro direttore deve dire una cosa importante, non il vostro, il direttore della radio. E io vi ringrazio tantissimo. Grazie. In realtà volevo spremervi molto di più, ma non ci sono riuscito, però la prossima volta significa che dovrete tornare. Ringraziamo tantissimo Caterina Molteni e Sabrina Samori del Mambo. Grazie, assistente curatrici. infatti sta cosa qua mi lascia un po' così. Io vi davo delle curatrici a tutte quante. E noi naturalmente ci sentiamo come al solito con Cox Spaziale lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20, e naturalmente vi lascio con le solite parole del nostro direttore, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.